abbiamo. Allora, intanto scusate, c'è qualche punto di ritardo, perché stavo cercando di fare una cosa che ho fatto solamente una volta e cerco di fare adesso, grazie all'aiuto. Che è mettere, adesso non so se è tutta, ma la parte sicuramente è lunga di Metropolis con delle musiche che non appartengono né alla prima versione né alla seconda, una serie di versioni che è Aphex Twin, non so se qualcuno lo conosce, spero che sì, con la brava, che si chiama Twin ma è uno solo, quindi è un musicista di grande interesse, diciamo, sulla musica elettronica, e ancora di più perché specialmente la prima traccia usa il didgeridoo, che è uno strumento, qualcuno forse lo conosce, uno strumento di origine australiana, delle culture native australiane, che si suona con una tecnica particolare, che è una tecnica in cui si chiama di suono continuo, cioè io non io, perché non ci riesco, ma chi suona il didgeridoo espelle la nude il fiato e contemporaneamente utilizzando il diaframma inspira, quindi è una tecnica in cui l'ispirazione è quasi continua e con la contrazione del diaframma e delle guance, insomma, una tecnica abbastanza particolare, si fa un suono continuo. Questa tecnica del suono continuo è una tecnica che viene utilizzata anche da altri musicisti, anche da noi in Italia, per esempio in Sardegna ci sono dei famosi cantanti che utilizzano queste tecniche, e anche nella musica contemporanea ci sono moltissimi jazzisti, per esempio, che usano questa tecnica perché dà un senso di continuità molto significativo. Beh, allora, la musica elettronica di didgeridoo, Metropolis, grande film di Fritz Lang, appunto su una dimensione non solo futuristica della città, della metropoli, ma anche c'è il tema del dopo, sono tutta una serie di temi importantissimi che fanno di questo film veramente un capolavoro assoluto del cinema, che non mi ricordo quanti di voi l'ho visto, quasi nessuno, allora magari nel caso possiamo anche vedere tutto. Comunque non potete non conoscere profondamente Metropoli, perché è un film che l'ho visto diverse volte, veramente è molto complesso. Beh, quindi lo cominciamo tra 5 minuti. Prima di questo ci sono stati diversi studenti, non so se Ayala da qua, dove sta Ayala? Ecco qua, che mi sollecitavano a affrontare, se voi siete d'accordo, la questione dell'università rispetto ai problemi che offre sia in relazione a questi movimenti che ci sono stati in questi giorni, sia a proposito in generale. Io ho sempre avuto un'idea per la quale diciamo sì, la critica a una certa università per me è fatta più facendola che parlandone, non so se vi è chiaro questa differenza, cioè a mio avviso, spero che sia così, io non so, normalmente non mi va molto di fare un discorso, non so, politico, teorico, su il governo Berlusconi, il governo Prodi. Penso che sia più adeguata alla contemporaneità sviluppare una dimensione, chiamiamola critica, a partire da Metropolis e da Aphex Twin, piuttosto che, certo, io vi dico, la situazione dell'università italiana è veramente abbastanza disastrosa e con la nuova legge lo diventerà ancora di più. E ancora di più per voi, chi voglia fare il dottorato e immaginare una carriera all'interno dell'università veramente è difficilissimo. Abbiamo un problema più grave che una nuova generazione di ricercatori, di studiosi, di ragazzi che vogliano fare appunto ricerca all'università ha difficoltà a trovare dei canali istituzionali appunto per entrare dentro l'università. In questo senso l'università rischia un po' di invecchiare, di rimanere bloccata, di non avere una innovazione non solamente generazionale, ma proprio di idee nuove. Questo è sicuramente il grande problema. Secondo me il problema peggiore che noi abbiamo è come favorire ragazzi, studenti, neolaureati, dottorandi a entrare dentro l'università. Questo è un grande problema. Chi di voi è primo anno magari lo inizia a conoscere, chi è al secondo e terzo probabilmente già sa bene che questo è uno dei gravi problemi, che è legato anche alla specialistica che io sinceramente ancora presenta dei problemi, nel senso che molto spesso si rifanno in modo più o meno identico un tipo di impostazione di corsi che sono quelle della triennale. Per cui qual è il rapporto tra triennale e specialistica? Insomma, questi sono altri problemi che chi di voi, spero tutti, faranno poi la specialistica di lavorare di fronte. Beh, tutto questo sta all'interno di un tentativo di, voglio dire, di formarsi, di affrontare l'università che, io dico la verità, sia da questo governo, ma anche dal governo precedente, non è stata affrontata come merita, ve lo dico con tutta sincerità. Non è un discorso quindi di Prodi, Berlusconi, io uscirei fuori da questa trappola, specialmente per qui dentro all'università, e vi domanderei come mai governi di impostazione, se volete, politica diversa, non riescono a affrontare in un modo adeguato la nostra questione, la questione dell'università. Questo è un problema veramente molto drammatico, e se qualcuno di voi ha, diciamo, se delle cose da dire, una suggestione, un'osservazione, a me fa veramente piacere. La impostazione per entrare all'università come dare una scossa all'università è un problema difficile. Se qualcuno di voi ha un'idea, me la dica, se ne volete parlare, ecco, se non c'è una domanda urgente e se io interpreto questa difficoltà un po' di domande su questo tema come un po', non so se siete d'accordo, sono la mia ipotesi, diciamo, la critica all'università è mettere insieme Metropolis di Fritz Lang e Didgeridoo di Apex Twin. Va bene, facciamo questa prova? C'è un problema di fondo, di certo, di fondo. Quindi, ancora di più, quello che dicevo, di cercare forme innovative, di protesti, da aver difendere, non tanto per me, perché io sono meno divertita, non mi cambia niente, non ho il piacere di imparare cose nuove, quanto per i giovani che comunque troveranno sempre meno strade aperte e poi avranno, non so, tante università più alte e meno posti, oltre che meno impegnati. Inventiamoci qualcosa, però inventiamoci. Quello che dice la nostra cara studentessa che mi aiuta sempre è fondamentale. Il problema è che hanno tolto veramente tanti fondi all'università e quindi eliminando i fondi all'università l'università avrà sempre più difficoltà a affermare il suo compito fondamentale, che è la ricerca e la didattica. Una università che non fa ricerca non può fare neanche didattica, perché è una... quindi questo dovete fare il vostro, insomma, questa... No, era sull'argomento? Sì, stavamo dicendo che in Italia pare che l'Italia in Europa sia la prima ad avere maggior finanziamento per l'università, pare, ho letto su questo, rimango molto gravitato che l'Italia sia il primo posto per avere finanziamento all'università, al contrario, diciamo, credo che sia l'unico. No, ho letto l'altro giorno che mi è capitato un quotidiano tra noi, ma non so, io consiglio sempre di mantenere la fonte e di fare una cosa perché a me non risulta questo. Secondo me da una parte è giusto quello che diceva lei, dovremmo fare una didattica in un modo critico per riuscire a capire veramente che cosa vogliamo dal nostro futuro, è un modo per andare contro a quelli che fanno queste riforme per l'università e fare l'università bene. Però come possiamo continuare a stare qua dentro senza magari scendere in piazza nelle strade a far vedere che noi teniamo al nostro futuro, perché il ministro Gelmini o chiunque altro senza fare politica continua a dire che noi siamo dei malvagi, che siamo qui passivamente e noi gli dobbiamo dimostrare che noi siamo qui, che noi siamo quelli che parliamo e che è inutile dare finanziamenti alle banche se non investono più giovani sul nostro futuro. Mi fa molto piacere questo discorso che fai, perché è esattamente così. Io infatti sono molto d'accordo a fare manifestazioni nelle strade, che di preciso magari dal punto di vista, sono problematico nel fare l'occupazione, ecco, perché mi sembra che l'occupazione in qualche modo sia una forma di lotta un po' troppo relativa al passato, che ti chiudi dentro l'università e poi si fa. E poi sono stati tentativi di fare, insomma, il genere non ha funzionato. Allora, mi chiedo sulla parola, allora credo che, diciamo, la tua posizione è una posizione che io ho condivido al 100%, quindi se ci dovesse essere, penso che ci sarà, infelicemente, insomma, una nuova manifestazione, io credo che noi dovremmo andarci, cioè, io personalmente, poi non voi non farò di parte, ma io personalmente penso che aderirò, non sono andato l'altra volta per una serie di motivi, non sono neanche un po' dei complessi di colpa, per la verità, ma credo che sia importante manifestare in questo momento perché la situazione è veramente critica e poi la connessione con l'università che lo Stato, sia italiano, gli Stati europei, gli Stati Uniti, intervengono a salvare le banche è una cosa che solamente un mese fa nessuno mai avrebbe pensato. perché l'ingresso dello Stato a livello finanziario che salva le banche è una cosa che sta fuori dal tipo di economia che normalmente si definisce liberista, quindi è qualcosa di veramente paradossale e bisogna riflettere su questo. Il sistema bancario, specie queste banche che hanno fatto di tutti i colori, è salvato ovviamente da tutti noi, e invece l'università no. Allora questa relazione vi invito profondamente a riflettere. Questa relazione tra Stato e Stato, banche e università sono tre livelli su cui veramente la riflessione la deve fare. C'è una domanda là? Provocando anche all'interno di una tradizione liberista delle grandi critiche. Quindi il problema è che questo sistema finanziario non funziona, al di là del fatto che se non interviene lo Stato chissà che succede. Il problema è che se interviene lo Stato si mette in crisi il paradigma politico che ha governato per 30 anni l'Occidente. Questo è il problema, e non si può fare finta di niente. L'ultima cosa era l'articolazione della tua riflessione, secondo me, tranne diciamo se questo aspetto qui sulle banche, mi direi ripeto con me, diciamo così. Ma l'altro aspetto sono d'accordo, l'università pubblica dovrebbe essere, mi sono ricordato, totalmente cambiata. La riforma del 3+2 è stata fatta per cercare di far laureare più studenti. Allora, sapete come è stata questa storia? Io spero lo sappiate. Il 3+2, invece di fare 4, 5 anni, facciamo 3 anni più 2. Bene. Il triennio hanno raddoppiato gli esami rispetto a quelli del quinquennio tradizionale. Cioè la riforma che è stata fatta, e qui ancora una volta io mi interessa solamente di fare, neanche non ricordo veramente chi l'ha fatta, perché poi c'è un organo, la riforma triennale è stata una cosa peggiore che si possa essere immaginata. Tant'è vero che adesso l'hanno ricambiata un'altra volta, perché ogni anno fanno la riforma all'università, cercando di eliminare questa inflazione di materie per cui gli studenti, adesso quelli di primo anno meno, non so se tu sei di primo anno, chi è di primo anno? Per fortuna ha un sistema leggermente migliore, secondo me è sbagliato su tanti punti, se volete entro nel dettaglio delle materie a scienza della comunicazione, è profondamente sbagliata da un punto di vista qualitativo. Certo, da un punto di vista quantitativo avrete meno esami da fare. La metà, che è una cosa importante, però questo si è capito dopo quanti anni. A questo io ricordo, l'avevamo detto subito, mi spiace che c'era un gruppo di studenti insieme a me, che lo disse subito, questa riforma del 3.2 non può funzionare se infine fare lavorare più studenti e se si raddoppiano gli esami, come fanno questi studenti a fare gli esami? Non ce l'hanno fatta, non era possibile. Tant'è vero che dopo qualche anno, insomma, l'anno scorso si è fatta una nuova riforma, ma questa rincorsa di riforme, perché io ci capisco niente, per fare gli esami, se io vi dico come sono costretto a fare gli esami, ci sono almeno 10 modelli di esami, capito? Io non entro è una cosa complicatissima in realtà. Che bello, sentiamo le all'espressività giovanile nelle città, nelle donne. Per questo Roma è ancora un po' città, tenta di diventare metropoli, non ce la fa. Chi di voi è stato a Berlino, è stato a Barcellona, naturalmente si sente l'esperienza differente. Scusa, riempi e c'è un'aria che, insomma, che vibra, che vibra, che vibra, pulsa. Il ministro del Ministero precedente, Fabio Muschi, io quando lui è stato eletto ho detto, ah, finalmente una persona che ha studiato con Adorno arriva a dirigere l'università. Quindi io ho accolto un'enorme speranza a Fabio Mussi, sperando che desse veramente un tipo di immagine, non solamente finanziaria, ma proprio di lavoro culturale, del suo significato più ampio, delle cose attorno all'università. Vi dico sinceramente, la mia delusione con Fabio Mussi, al confronto del Gelmini, sembra quasi una persona decente, insomma, perché chi ha studiato con Adorno, sei ministro, ma fai qualcosa. Ma che cosa ha fatto? Non vi dico quello che ha fatto, perché se ancora ripenso a una delle azioni fondamentali in cui insomma, si è affidato in modo veramente incredibile, la delusione per me di Fabio Mussi è quasi peggiore di quella che possa fare questa nuova ministra. Questo semplicemente per dare un'idea che non è semplicemente un fatto di schieramento politico, usciamo fuori da questi schemi, figuriamoci, è qualcosa di più complesso dentro il quale dovremmo ragionare magari in modo, vediamo se ci riuscirebbe più. Riguardo al comunicazione con vorrei, però continuo a sottolineare questo, che una politica universitaria che sia veramente innovativa non c'è, sia da destra che da sinistra, non c'è. Non c'è, perché questa si basa non solamente con i primi anni che state facendo voi, con il dottorato, ma con i concorsi. Il sistema dei concorsi all'università è un sistema che comincia con ciclo e corrotto. Non voglio dire corrotto, è un sistema corrotto. E la corruzione non è caratterizzata, ve lo dico con tutta sincerità, dall'appartenenza a un partito politico. È un sistema che è basato su una tradizione italiana per cui un corso vince, il papà devono schieramenti, se no non si vince. Questo è il problema. Quindi è un altro lato del problema, che non è semplicemente quello in cui mi sono d'accordo sulla precarietà, figuriamoci. Io sono d'accordo, come vi ho detto già una volta, avere una mobilità sul lavoro, ma avere anche una continuità normativa sui differenti lavori, che è totalmente diversa da questa impostazione. C'è un'altra domanda? Sarebbe veramente è dignitoso che io faccio uno stage e lavoro. ho per quanto poco, ma il mio reddito, insomma, questo è il loro fondamentale, lo stage di gratuito lo trovo veramente anche una cosa offensiva, insomma. È un ricatto, tu entri nel giornale, mi fai questo qua, non ti va, così poi lo metti nel curriculum, sì, si può fare, però non è serio una cosa del genere. Mi trovo su questo, mi trovo totalmente contro. Lo stage poco ma deve essere pagato. Ayala, allora, il produttore, ma produttore che ci ha parlato? E stavo cercando di attivare i discorsi. Ha fatto solo, non sento. Le banche. Le banche, ah. Io nel 2001 ero in Argentina. Per l'Argentina c'è anche un'altra sintesi argentina. Il G8 senza Cina, India, Brasile, chi rappresenta? sognato un ingegnere informatico. Un anno prima di laurearsi, aveva già, non solo, aveva già le richieste di aziende come Samsung, come IBM, come tutte, quasi tutte tecnologiche, per lavoro proprio. Questo c'è anche in Italia, se ti dai l'informatica sono praticamente lavoro. E lo stesso anche in architettura, mia cognata, la moglie, è laureata in architettura, quindi loro hanno, mi dicevano che c'è un'altissima percentuale di laureati, di laureandi che chiudono, si laureano nel corso di laurea, quindi senza andare fuori. Ma soprattutto la cosa che mi ha lasciato molto stupito è che le aziende, le istituzioni polacche non se li fanno lasciare andare via. La stessa università, mio cognato, dopo che si è laureato, è iniziato il giorno dopo, già subito un contratto a tempo indeterminato a lavorare all'interno dell'università ed è oggi, dopo 3 anni che è laureato, è il responsabile dei sistemi informatici. Questo è una novità. In una città. Il primo caso succede anche in Italia, laureato in informatica normalmente viene a trovare facilmente lavoro, ma non trova lavoro all'università, questo sicuramente, se non fa parte in un modo che non mi dico. E spesso in una città che ha 120.000 abitanti, ha due poli universitari, uno umanistico e uno tecnologico, ed ha una città come Breslavia che ha neanche 2 ore e che ha che lì c'è un ateneo, quindi c'è molto interesse verso il sistema universitario affinché sia efficiente ed efficace e produca comunque delle persone che tra l'altro lo stesso governo cerca di tenere, di non far andare via, perché c'è una richiesta proprio di ingegneri all'estero mostruosa. Sì, sì, però diciamo il campo dell'ingegneristica e informatica è quello che è uguale anche in Italia, vabbè, è anche in generale. Bene, ci sono altre questioni che dite, insomma, mi ha fatto piacere che è iniziata una discussione, ognuno poi ci pensi e trovi, cerchi di trovare la propria via, magari rispondendo insieme con chi vuole. Quindi se siete d'accordo io passerei a Metropolis e a Esquid, va bene? O avete un'ultima domanda? C'è un'ultima? Allora, facciamo. Come ci mette la luce? La luce va bene? Si vede? Vede bene? Bianco e nero. È bianco e nero? No, dato che è bianco e nero si vede poco, dovrebbe chiudere le tende. Voi che state là, dovete chiudere le tende? Ce la fate? Credo che le tende tecnologicamente... Chiudete le tende, dai. Ah, bellissimo, grazie. Ah, perfetto. Io sono già potente, si vede molto meglio, vero? Allora, facciamo insieme. Allora, io ho messo... in modo che appena ne finisce uno dovrebbe ricominciare un altro. Così. Sì, basta fare quello. Vado? Andata, prego. Io rimango qui, ho bisogno di... No, che la funziona, non ce la andiamo. Ci sono i sottotitoli sia in tedesco, che conoscete tutti quanti, ma anche in italiano, quindi chi non conosce il tedesco può meglio. A volte sono mescolati, però non serve, poi naturalmente... Metropolis è un film di gran parte di immagini, certo anche la parte scritta è un contenuto veramente importante, però anche se non ci vedete niente non è un problema, non protestate perché la potenza delle immagini credo non sia più forte della potenza delle risorse. Quindi prima della parte delle immagini thank you. avessi un cavo, magari penso che si potrebbe collegare anche qui. Ah. Che anche qua al massimo, non penso che sia al massimo. Sì. Cioè. Io penso che si senta, insomma, no, si sente in modo da si sente. Beh, partiamo. Thank you. passo come definito il dottor Caligari, c'è sempre il tema di uno scienziato, voglio dire pazzo, insomma, che sta fuori dalle regole e che è connesso con la creazione di un altro tipo di essere. In questo caso, un po' forse avete intuito, Maria, questa donna che sta cercando di produrre un movimento, diciamo così, di autonomia e di liberazione, è un discorso intrecciato con una sorta di cristianesimo primitivo, un socialismo ingenuo e l'amore, ci sono però alcune sequenze che sono veramente straordinarie, vi vorrei vedere se questa qui è una, quella in cui Maria appunto viene rapita e trasformata nel doppio, dal principio del bene al principio del male, il film è tutto costruito in termini di dualismo bene male. Però mi sembrava che stesse qui, forse non so se ho capito bene, non si può andare avanti veloce a questo parco con il sistema, diciamo, più o meno classico. DLC sulla strada, se non si chiude un motivo non la prendete, così non mi danno cioè far vedere la sequenza dell'automa quando lei consente e poi il momento finale, cioè vogliono stare solamente due scene, tre scene. Mescola sempre elementi, diciamo, mitologici con un vero industriale, il che insomma, è un elemento significativo. La grande fabbrica è presentata come il golem. Se qualcuno di voi vi ha mai visto il film Campiglia, che è un film italiano, in cui anche D'Annunzio partecipò, a un film straordinario da tanti punti di vista, voglio dire, nella storia del cinema, perché presentava la lotta tra Roma e Cartagine e la testa di Cartagine dal punto di vista naturalmente romano, dove le divinità cartaginesi sono rappresentate esattamente come è rappresentata qui la Roma Fabbrica. La Roma di Maria sta per essere una vita perché deve essere trasformata in un sistema. Sì, lo so, è 8 pezzi. Non c'è un numero che andare. Appena entra in scena. Ti dico sì. No, non entra, appena entra. Ci dovevo far vedere questa sequenza, poi quella dell'esecuzione e quella del. In modo fino a quelli si creerà, diciamo, il doppio, la macchina. Diciamo tre sequenze, questa, la costruzione dopo un anticipo che avete visto del doppio. Poi c'è una scena, una sequenza molto bella della seduzione, dove lei seduce tutti, e poi c'è la scena finale, insomma, che è molto celebre. Ecco, vedete? Qui mi pare che qui Maria la fa entrare dentro. Gracias. Sentiamo il silenzio. Thank you. quindi non è il montaggio classico, il montaggio classico queste questo è il montaggio che sta fatto nel 2001 nel 2001 per mostrare le sequenze nuove. Se qualcuno di voi si va a Praga ha visto qualcosa di simile. Sì, non è presente appunto la sequenza del ballo del secondo e con le qualche generità, è straordinaria, l'immagine è potentissima. filiforme a questo paradigma. La sequenza continua, ovviamente è drammaticissima. Andiamo ancora meglio. Io per finire provo a alzare il volume. Va bene, ma così la possiamo lasciare così, sì. Molto concezione, no? Gli operai diventano facile preda del livello d'oro. Ecco, questo è un altro aspetto, diciamo, di questa ambiguità della concezione di questo anche. E la spia del padrone cerca di interrompere tutto questo, non ci riesce. Thank you.